Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Atmosfere orientali in questa nostra seconda puntata stagionale. Dopo essere ripartiti dal cuore dell'Europa la scorsa settimana, evadiamo ora dal vecchio continente per portarvi in Giappone. Lo faremo accompagnati da un giovane professionista italiano che ha scelto proprio l'Estremo Oriente come terra di approdo e che è attualmente in forza ad una startup nipponica. Con lui valuteremo i pro e i contro di un trasferimento nel paese del Sole Levante. Settembre segna il ritorno delle segnalazioni della collega Francesca Barbieri del Sole 24 Ore, sempre molto attenta nel fornirci indicazioni utili su bandi e opportunità aperte a livello internazionale all'interno dello spazio Toolbox. Gli appuntamenti di Eures Italia, con tutte le opportunità giuste per conquistarvi un posto in Europa, faranno nuovamente capolino in Job Abroad e a chiudere vi daremo qualche consiglio pratico su come far ripartire la vostra vita in Germania insieme all'autrice di un libro di recente pubblicazione. Bene, fatte le premesse necessarie, col ricco menù della settimana, non ci resta a questo punto che imbarcarci verso il Giappone. Venite con noi! Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ce lo fornisce una recente ricerca del portale LinkedIn, secondo cui l'Europa ha registrato un aumento del 13% nel numero di professionisti della sostenibilità in termini di green jobs durante l'ultimo anno. Questo in un periodo nel quale i cambiamenti climatici sono diventati un tema prioritario per le imprese di tutto il mondo. Le prime 10 città globali con la più alta concentrazione di professionisti nell'ambito della sostenibilità sono Stoccolma, Helsinki, Amsterdam, Zurigo, Vancouver, Londra, Milano, Auckland, Melbourne e Washington. Siamo così giunti a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile ad orientarvi nel mondo del lavoro internazionale. Tornano oggi i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo subito cosa ci riserva il menù odierno con la collega Francesca Barbieri. Erasmus partirà da remoto al 100% e poi più avanti ci saranno lezioni in presenza in un ateneo straniero. I double degree, cioè quei corsi di laurea triennali o magistrali che portano al conseguimento di un titolo riconosciuto in Italia e in uno o più paesi stranieri, potrebbero essere invece completamente a distanza. Per tutti gli altri programmi di scambio internazionale, che durano di solito 6 mesi, si valuterà a seconda del paese e dell'università dove si vorrebbe andare a studiare. Per l'anno accademico alle porte, la parola d'ordine sarà in ogni caso blended, didattica mista, con una parte più o meno preponderante di lezioni online che si affiancheranno a quelle in presenza. Quello che appare certo è che il Covid non ha intaccato l'attrattività delle esperienze all'estero per studio o per lavoro. Secondo una ricerca di Ipsos per l'Agenzia Nazionale per i Giovani, sulla base di 1200 interviste a ragazzi dai 14 ai 35 anni, l'80% si dichiara disposto a fare un'esperienza di minimo un mese all'estero, vista come opportunità imperdibile per lo studio o il lavoro. Ci sono poi i ragazzi italiani iscritti direttamente a corsi di laurea all'estero. La società Omni Admission, che offre consulenza ai giovani Globetrotter, ha realizzato un piccolo monitoraggio delle principali destinazioni, da cui emerge che negli Stati Uniti gli studenti internazionali del primo anno, e quindi anche gli italiani, non possono entrare se l'università che frequentano andrà al 100% online con i propri corsi. E in generale tutte le matricole sono incoraggiate a seguire il primo semestre fuori dagli Stati Uniti. Gli iscritti agli anni successivi sono invece quasi tutti tornati negli States, sia che seguono lezioni blended, sia solo online. Per chi volesse invece congelare l'esperienza di studio all'estero, c'è la possibilità di chiedere un gap year, il cosiddetto anno sabbatico. In Europa gli approcci sono diversi. In presenza, blended o interamente da remoto. In Gran Bretagna, ad esempio, i campus sono aperti anche agli studenti europei ed internazionali e anche in Spagna si privilegiano le lezioni in aula. In Asia, dove ci sono anche corsi in presenza, i ragazzi hanno l'obbligo di 14 giorni di quarantena all'arrivo e devono scaricare una app che monitora gli spostamenti. La situazione, insomma, è molto fluida. Per avere informazioni aggiornate si può consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it nelle sezioni dedicate alle opportunità di formazione e al coronavirus, mentre per Erasmus il sito di riferimento è www.indire.it. Bene, dopo Toolbox è arrivato il momento di incontrare il testimone della settimana. Si tratta di un professionista di 31 anni, esperto di logistica, con alle spalle una laurea in economia in Italia. Attilio ha preso il volo 7 anni fa per il Giappone, paese che è diventato la sua nuova casa di vita e professionale. E oggi è in onda Generazione Mobile per offrirvi un'alternativa, diciamo pure esotica, al vostro futuro lavorativo. Buon pomeriggio, Attilio Nespoli. Ciao, ciao Sergio. Laurea triennale in economia aziendale a Milano, poi hai studiato inglese in California prima di trasferirti in Giappone a Osaka per imparare il giapponese. Perché una scelta così netta da parte tua? Allora, io ero partito inizialmente per imparare inglese in America, che è da zero, e nel mentre là ho notato le differenze tra Europa e Stati Uniti, che nonostante la stessa radice, diciamo, europea, sono notevoli. Inoltre, avendo conosciuto molti giapponesi lì, ho detto che tornare in Italia è stato impossibile e ho deciso di partire. Complicato lo studio della lingua giapponese, lo consiglieresti? Consigliare ovviamente sì, soprattutto se uno ha intenzione di avere a che fare col Giappone. Però mentirei se dicessi che è una lingua facile. Ovviamente, essendo competente diversa dall'italiano o dall'inglese, richiede molto tempo dedicazione. Però non è impossibile se sono riuscito a impararla anch'io in relativamente poco tempo. Attilio, come cercare corsi di lingua in Giappone? Ci sono siti di riferimento, borse studio? Allora, per corsi di lingua in Giappone non ci sono borse di studio, però almeno visto negli ultimi anni la domanda è aumentata, quindi anche l'offerta. Con una ricerca in inglese su Google si possono trovare molte offerte. E soprattutto in base un po' a dove si vuole studiare si può scegliere la scuola migliore. E non ci sono borse studio, però con il visto studentesco si può lavorare part time fino a 20 ore che può dare una mano a fine mese. Dalla scuola di giapponese il salto verso il master in international management, sempre a Osaka, è stato conseguenziale. In cosa un master in Giappone può fare la differenza? Allora, un master in Giappone, ovviamente essendo qua, ti dà un vantaggio per capire la cultura aziendale lavorativa giapponese, che è completamente diversa da quella occidentale. E oltre al fatto che essendo in un ambiente internazionale si possono studiare anche vari punti di vista di altre culture. E anche qui ti chiedo dove cercare un master in Giappone, quali sono i migliori? Allora, come penso in tutti i paesi, bisogna guardare un po' quello che si vuol fare e quindi cercare università per università. Qua ovviamente le università statali sono le migliori, ma ci sono anche molte università private. Quindi veramente dipende un po' da quello che uno vuole studiare e io consiglio, oltre al master in sé, anche un po' a dove in Giappone, perché tipo ad esempio a Tokyo, essendo una città molto internazionale, secondo me si perde un po' di imparare la cultura giapponese. E sono previste borse studio o facilitazioni per gli studenti stranieri? Allora, per università e master sì, e devo dire anche abbastanza tante. Ad esempio, nel mio caso ho avuto una riduzione sulla RET del 30% e il primo anno una borsa sui 600 euro da un ente locale e il secondo anno sono stato selezionato per una borsa di studio da un'azienda giapponese di circa 1500 euro. Nel 2016, 4 anni fa, la tua prima assunzione presso una multinazionale di servizi logistici. Da lì come si è poi dipanata la tua carriera? Allora, sì, in questa azienda di servizi logistici giapponesi. E nonostante un master nelle aziende giapponesi bisogna fare molta gavetta e quindi hanno fatto fare i primi 2 anni import-export, il terzo anno gestire un magazzino ovviamente tutto in giapponese e finalmente al quarto anno sales development negli headquarters. Però diciamo, per fare carriera in azienda giapponese bisogna avere molta pazienza. Ovvio. E attualmente di cosa ti occupi? Attualmente, circa un annetto fa, mi sono trasferito e mi occupo di supply chain, in particolare logistica dei prodotti hardware per una startup di IT e blockchain. Andiamo ora, Attilio, ai tuoi consigli pratici per trovare impiego nel paese sollevante, perché ti chiedo, per trovare impiego è fondamentale o abbastanza fondamentale essere iscritti a un'università o a un master in Giappone, come tu stesso alla fine hai fatto? Allora, esattamente, perché qua c'è una, viene chiamata job hunting season, e qui gli studenti dell'ultimo anno cercano lavoro e le aziende allo stesso tempo in quel periodo aprono le assunzioni, e quando l'anno accademico finisce a marzo, il primo aprile si entra in azienda. Quindi se uno cerca lavoro dopo la laurea, le risorse umane penseranno che non è stato in grado di trovare lavoro prima e che quindi non è un candidato ideale. Quindi tenetelo bene a mente, meglio studiare possibilmente prima un'educazione terziaria ovviamente in Giappone e poi cercare lavoro. Questo è il canale, come dire, preferenziale. Ma ti chiedo, Attilio, qual è il profilo ideale ricercato dalle aziende giapponesi? Allora, ovviamente anche molte aziende giapponesi cercano stranieri, soprattutto perché in Giappone non molti parlano inglese, e quindi io consiglio di cercare queste aziende. E inoltre, se uno, come detto prima, esce da un'azienda, da una università prestigiosa giapponese e dimostra di adattarsi alla cultura giapponese, sarà il candidato ideale. E quali lingue, Attilio, conoscere per lavorare in Giappone? Il giapponese è imprescindibile, bisogna studiarlo per forza. Ovviamente sì, sembra scontato, però anche in una città come Tokyo, internazionale, nelle aziende, anche se ammesso che si trova un lavoro in inglese, poi dentro l'azienda la comunicazione in giapponese e quindi è d'obbligo. E in più devo dire che per un giapponese, un europeo parla inglese, e quindi se uno non parla inglese, diciamo, può diventare un punto di demerito. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Attilio Nespoli, 31 anni, esperto di logistica al lavoro in Giappone. Proprio Attilio ci sta traghettando con la sua storia e le sue indicazioni verso il paese del Sollevante, spiegandoci come trovarvi opportunità e soprattutto adattarsi ad una cultura del lavoro decisamente differente rispetto alla nostra. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Attilio, quali sono i pro e i contro del lavoro in Giappone? Anche perché immagino sia una cultura lavoro davvero diversa dalla nostra. Sì, è molto diversa e ad esempio hai molte più ore di straordinari e molte meno ferie, e il primo anno si hanno di solito 10 giorni di ferie che includono i giorni di malattia, e che quindi le due settimane ad agosto sono una cosa un po' impensabile. Però d'altro canto è una situazione di lavoro più stabile e anche la carriera pian piano, diciamo, va avanti. Tu quali canali consigli sia per cercare ma anche per cambiare lavoro? Allora, per cercare, onestamente, fuori dalla job hunting season secondo me è un po' complicato, ma per cambiare lavoro in base un po' agli ambiti, e ci sono molti headhunters, sia stranieri che giapponesi, che offrono ottimi servizi. E al contrario, nel mio caso sono stato fortunato, ho trovato su LinkedIn, ma devo dire che le aziende giapponesi non lo utilizzano molto spesso, però ovviamente tenere il profilo aggiornato può essere molto utile. Quali visti sono necessari per studiare e lavorare in Giappone? Allora, i primi 3 mesi si può studiare in una scuola di giapponese senza visto, per più di 3 mesi bisogna il visto studentesco, che ti permette di lavorare part time, e poi nel caso di un lavoro in azienda, allora c'è il visto lavorativo, che richiede una laurea e un'offerta di lavoro. Con questi due prerequisiti è molto semplice da ottenere. I tuoi consigli pratici sulla vita in Giappone? Partiamo ovviamente dalla casa. Come cercarla nelle grandi città e quali prezzi stimare? Sappiamo bene che a Tokyo si tratta di case piccole, immagino anche molto costose. Esattamente, e soprattutto sono città completamente diverse dalle nostre e direi a dir poco enormi, quindi il mio primo consiglio è, appena arrivati, prima di arrivare, cercare sempre in inglese share house, così ci si può un po' abituare alla nuova città, fare nuove conoscenze, e una volta abituati si può cercare tramite agenzie immobiliari la casa, soprattutto nella zona più ideale, soprattutto perché i prezzi vanno per un monolocale dai 600 ai 900 euro La distanza dalla stazione è quella che cambia il prezzo. 5 minuti in più a piedi ti fa diminuire il prezzo dalla stessa casa dai 50 ai 100 euro. Tra l'altro, nonostante l'ottima rete di trasporti, parlo ovviamente di Tokyo. Una domanda a Tilio invece su come anche a livello lavorativo state vivendo questa fase di pandemia. Ha cambiato molto le abitudini anche nel tuo, diciamo, il tuo piccolo? Allora, nel mio, diciamo di sì, soprattutto essendo da Bergamo, diciamo, ho vissuto il tutto un po' più con ansia. E quindi, come ho appena potuto, ho lavorato il più possibile da casa, e anche se i giapponesi è stata vissuta un po' più alla leggera, diciamo, è stata un po' meno forte qua. Però soprattutto a Tokyo ho molta più gente che lavora da casa, anch'io adesso faccio di norma 3 giorni a casa e 2 giorni in ufficio. E allora Tilio, ringraziandoti per i preziosissimi consigli che ci hai dato, ne hai dati davvero tanti, spero saranno utili a tutti i giovani che ci stanno ascoltando, ti pongo la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Pianificare, ma non è neanche troppo, pianificare a medio, breve medio termine, perché c'è sempre tempo a cambiare idea in futuro, e mettersi una moka del caffè in valigia che torna sempre utile. Bene, è arrivato ora il momento della nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, e c'è il primo appuntamento dopo le vacanze con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo allora quali sono le proposte. Buongiorno, sono Stefania Garofalo, consulente di Eures Italia in Friuli Venezia Giulia. Oggi vi presento le ultime opportunità per lavorare a Malta, un mercato molto interessante. 2 società stanno cercando tramite Eures 2 software developers e 10 Italian speaking sales agents e 10 Italian speaking account managers. Ma vediamo le offerte più nel dettaglio. Arnold Media Ltd cerca 2 sviluppatori qualificati, capaci di trovare soluzioni all'interno di un team tecnologico multidisciplinare. L'azienda offre contratto a tempo indeterminato, formazione sul prodotto, uno stipendio tra 40 e 50 mila euro, assicurazione sanitaria dopo 6 settimane, incentivo per il welfare dopo il periodo di prova. Fra i requisiti troviamo almeno 3 anni di esperienza nello sviluppo di software, partecipazione a progetti che dimostrino una buona esperienza in campo IT, forti capacità analitiche di problem solving e esperienza nella tecnologia cloud, preferibilmente Azure Cloud Services. I colloqui si terranno con video interviste via telefono e un test di 24 ore. Le altre 20 posizioni sono richieste da ZP Services Ltd, un fornitore specializzato nella gestione di attività strategiche per il commercio di prodotti finanziari online. Per loro siamo alla ricerca di 10 agenti di vendita e 10 account managers che parlino un ottimo italiano, vogliano lavorare in un ambiente dinamico e abbiano preferibile esperienza B2C. Le persone individuate creeranno e manterranno relazioni con i clienti al telefono, convertendo clienti potenziali in clienti attivi. Faranno ricerche di mercato e verificheranno e raccoglieranno documenti. I requisiti per candidarsi per la posizione di sales agent sono almeno 6 mesi di esperienza in un ambiente simile, preferibilmente un call center. Studi economico-finanziari sono un vantaggio. Qualifiche preferenziali per l'account manager sono invece una laurea triennale, meglio se in economia o finanza, passione per i mercati finanziari e una comprovata esperienza in sales account management. L'azienda offre un contratto di 2 anni rinnovabile con iniziale formazione interna, stipendio base di 800 euro che aumenta nel tempo, sistema di bonus e vantaggi. In più, pick up con autista all'arrivo in aeroporto, possibile assistenza per l'alloggio nelle prime 2-4 settimane e dopo 3 mesi di lavoro indennità per i pasti e rimborso del biglietto aereo fino a 200 euro per i trasferimenti. Colloqui via Skype. Per avere maggiori informazioni su tutte queste offerte leggete le news sul portale ANPAL alla sezione Eures. Trovate anche queste offerte nel portale Eures cercando il paese Malta, la parola chiave Italian, e su offertelavoro.regione.fvg.it. In bocca al lupo! Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Vi portiamo oggi in Germania, per la precisione a Monaco di Baviera, dove è ambientato il libro di cui intendiamo parlarvi. Un libro che fa perno sulle avventure professionali di una laureata in ingegneria che ha deciso di mettere per iscritto la sua esperienza di trasferimento in terra teutonica. E oggi è qui con noi per darvi qualche consiglio utile. Silvia Cimmino, autrice di Second Chance, ci spiega la genesi del volume. Nasce innanzitutto da una consapevolezza che mi è venuta un po' alla volta nei primi mesi dopo il trasferimento, che pur essendomi preparata molto piuttosto bene per questo trasferimento, per la nuova vita, in realtà c'erano tante cose che non sapevo e non avrei potuto sapere prima di arrivare qui, e ho pensato che di condividerle con chiunque altro avesse la stessa intenzione. Come si struttura il libro? Quali consigli dai a livello generale? Niente, è proprio una biografia. Io racconto quello che ho vissuto da quando ho deciso di trasferirmi in Germania fino a quando ho potuto dire finalmente che avevo fatto la scelta giusta, che le cose si erano sistemate, che avevo ottenuto quello che speravo di ottenere. Mi sono fatto un racconto di 3 anni della mia vita. Allora, andiamo ora sui tuoi consigli. Consigli innanzitutto per chi, come te, cerca un lavoro ingegneristico, a carattere ingegneristico, in Germania, magari appunto anche nel sud della Germania. Se si cerca lavoro in un ambiente, in un settore che non è, diciamo, automotive o ferroviario, la lingua potrebbe non essere necessaria, ma altrimenti sì, diciamo, io ho ricevuto delle risposte negative ai chiesti di lavoro in alcune aziende, perché comunque il tedesco era richiesto piuttosto fluente, quindi diciamo in alcuni settori potrebbe essere necessario, ma in altri no. E in ogni caso avere una grande flessibilità e cercare di portare la nostra esperienza, la nostra attività di italiani, che molto spesso magari tedeschi manca e che però è comunque apprezzata, e mettersi in gioco completamente. Meglio candidarsi direttamente con le aziende o attraverso motori di ricerca? Hai anche dei consigli di siti dove guardare? La cosa più semplice per molte persone che vengono da fuori è appoggiarsi a delle aziende di tipo consulenza, che tra virgolette, che sono molto utilizzate anche in Italia, sono utilizzate anche qui, e in effetti questo è stato anche il mio modo per entrare nel mondo del lavoro. Ho fatto dei colloqui diretti in aziende, però alla fine il successo l'ho ottenuto grazie a un'azienda di consulenza che mi ha introdotto nell'azienda in cui poi dopo sono stata, dopo un anno e mezzo, anche assunta con un contratto interno. Per maggiori informazioni potete cliccare su Second Chance, come ho fatto ripartire la mia vita in Germania, edizioni You Can Print. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, ma soprattutto ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere, ma soprattutto testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Potete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.